Ricordate, poiché in tutti e tre i casi al numeratore avete 10 kg, un volume minore al denominatore produrrà una densità più alta. Quindi, per ottenere la densità più bassa, quale volume dovrete scegliere?